Marco, siamo intercettati. Ci hanno messo le cimici. Ci ascoltano ovunque. Mi hanno detto persino alla radio. Siamo alla radio, alla hai capito? Alla radio, on air. Ma che splendida opportunità mediatica. No, scusate, non ho capito. Siamo intercettati o una grande opportunità? Cosa dottor, sta... dottor, tutti i giorni su Radio 24 alle 16:50 si ascolta che par de sentirla parlare proprio lei. Uè, ma come alle 16:50 parlare in radio? Uè, disc jockey, alle 16:50 io lavoro. Ho capito, ma 5 minuti ci si può fermare, stiamo sempre a lavorare. No, mi lavoro e mi ascolto invece la replica la sera alle 22:50. Ma siate smart, ma scaricatela in podcast. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv, 3Z2O, una T. Arriva la primavera e tutto si rinnova. Anche l'energia. Mr. Kilowatt. Mr. Kilowatt su Radio 24 rinnova il suo appuntamento. Dal lunedì al venerdì alle 21. Il programma che ti aiuta a capire e usare l'energia in modo consapevole, rinnovabile ed ecosostenibile. Mr. Kilowatt. In collaborazione con Schneider Electric, lo specialista globale per la gestione dell'energia. Sono l'antropologo Erminio Valladori in uscita con i miei allievi per studiare dal vivo la tribù Linear. Professore? No, il primo della classe. Ho osservato che nella tribù Linear c'è un culto particolare, quello del rispetto. Infatti... Rispetto della trasparenza, dei tempi di liquidazione. Certo, e... Delle opinioni dell'assicurato. Appunto. E rispetto del suo denaro. Con Linear si può risparmiare fino al 40% sull'RC Auto. Ma se dici tutto tu, io che ci sto a fare? Dica il numero verde. Ah già, 800-11-2233. Fonte libretto rosso 4 ruote 2000. Smau porta l'innovazione direttamente nella tua azienda. Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno presso Bologna Fiere ti aspetta la seconda edizione di Smau Business Bologna. Scopri le migliori soluzioni adottate dalle aziende come la tua per vincere le sfide del mercato. Partecipazione gratuita su invito. Iscrizione obbligatoria su smau.it. Quanti primi abbiamo in menù? 3? Sicuro? Che cuoco sarei senza di te. Ma non montarti la testa. C'è un'energia che lavora per te. Quella che Enel Energia, società di Enel che opera sul mercato libero, offre a commercianti, liberi professionisti e artigiani. Scegli tra un prezzo flessibile anche con un tetto massimo o un prezzo che blocca la componente energia. E tu, gelosa? Chiama l'800 900 860. Enel, l'energia che ti ascolta. Tornano i consigli di Rudy Giri. Consiglio numero 34. Come avere un'auto con il massimo della facilità. Prendetene una giocattolo, annaffiatela e aspettate che cresca. Risparmiati questi consigli. A giugno Nissan Note è tua da 12.300 euro con clima, radio e finanziamento a tasso ed anticipo zero. TAEG 2,53%. Nissan City Cars. Welcome to Simplicity. Offre soluzioni su misura per la mia impresa. Fastweb Soluzione Impresa vi presenta Borse in diretta. L'incremento degli ordini all'industria in Germania consente il recupero alle borse europee che attendono Wall Street viaggiando contrastate. Piazza Affari è a metà seduta la migliore dopo un avvio decisamente negativo e guadagna lo 0,4% nel FTSE MIB trascinata da Autogrill e Azimut più 2% per entrambi i titoli. Piatte Madrid e Francoforte, mentre Parigi perde lo 0,2% e Londra lo 0,5%. Nonostante i tentativi delle autorità ungheresi di gettare acqua sul fuoco sulla gravità della situazione per l'economia di Budapest, i mercati continuano a pagare l'incertezza sullo stato di molte economie in Europa, ma aspettano di trovare una direzione con l'avvio delle borse statunitensi, dove i future sono in lieve rialzo. Telecomunicazioni, media e società di vendita al dettaglio sono i comparti più penalizzati. A Milano perdono l'1,7% Mediaset e Telecom Italia. Sul fronte dei cambi, dopo un minimo toccato sotto quota 1,19 dollari, l'euro ha rialzato la testa e tratta a metà seduta 1,1970 dollari e ripresa anche le quotazioni del petrolio, il barile è scambiato a 71,40 dollari. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. entra nel nuovo sito di Radio 24 e sarai subito in contatto con i conduttori e la redazione. Entra nel vivo della diretta. Tu hai una macchina piena di che cosa? La mia macchina è abbastanza ordinata, il problema è quella di mia moglie. Intervieni nelle trasmissioni. Se possibile, volevo parlare di come Cruciani conduce la trasmissione. Sì, dica quello che vuole, Mauro. Partecipa alla community. Mi ha scritto su Facebook una persona poco fa. Scarica i programmi per ascoltarli dove e quando vuoi. Da oggi l'informazione, gli approfondimenti e il palinsesto di Radio 24 hanno un nuovo sito più ricco, dinamico e aggiornato. Un sito che parla. www.radio24.it. Si rinnova di passione. E la passione si sente. Si sente. 1 più 1? 5. 2 più 2? 5. 5 più 5? Lo so, 5. Suo figlio è intelligente, ma non si applica. I grandi sogni si fanno fin da piccoli. Oggi la Volvo XC60 che hai sempre sognato è arrivata. Nuova Volvo XC60, finalmente 2000 diesel, con la potenza di 5 cilindri. Da 36.700 euro, negli showroom Volvo. Commercialisti e consulenti gestiscono contabilità, bilanci, dichiarazioni, paghe per i loro clienti e tutte le pratiche e attività dello studio con il mondo di E. www.esasoftware.com. Ciao, sono Fabio Cannavaro e con IP stiamo cercando i titolari per la nuova nazionale IP. Acquista dal tuo gestore IP un buono carburante edizioni mondiali e partecipa al concorso IP Italiani con Passione. In palio, 22 convocazioni per trascorrere 2 giorni di ritiro a Coverciano e allenarti con Fabio Cannavaro. 1000 maglie autografate e 1000 buoni carburante da 50 euro. Vieni a giocare con me. Con IP, gli italiani fanno squadra. Fino al 26 giugno, info e regolamento presso i gestori aderenti su ip.gruppoapi.com. Il prezzo è giù, ha scelto Mario! Con le navi gialle di Sardinia Ferries, da Livorno a Golfo Aranci, 2 persone più auto, da... Auto? C'ho la Spider! Fa lo stesso! 32 euro? Giusto, comprese le tasse! Con Sardinia Ferries, ok, il prezzo è giù! Sì! Tariffa non rimborsabile valida fino al 7/11/2010, soggetta a condizioni jackpot e disponibilità posti su sardiniaferris.com e nelle agenzie viaggi. Per le tue vacanze usa la testa. Ci sono i grandi vecchi. Per la mia venerabile età avrei ancora qualcosa da indicare. Ci sono boss e furbetti. Totorrina si lamentava che Pino Provenzano, un trattore, si era presentato vestito tutto con la tunica. Magistrati scomodi, testimoni inconsapevoli e custodi vari di segreti. È il mercato dell'informazione. Le storiacce. Storiacce. Noi ve le raccontiamo dalla viva voce dei protagonisti. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. E la domenica alle 15 e alle 22 le storiacce diventano d'autore, la cronaca dalla voce e dalla penna di scrittori di noir. Radio 24. La passione si sente. Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento di Radio 24 con la cronaca, i fatti e i personaggi che raccontano l'Italia in controluce. Per prima cosa oggi vogliamo affrontare un argomento delicato e senz'altro doloroso, una delle tante vicende in Italia legate all'impiego del materiale killer per eccellenza, ormai fuori legge, l'amianto. C'è un gruppo di lavoratori pugliesi ammalatisi di cancro dopo aver lavorato su navi contaminate. Per loro è arrivato un primo risarcimento. La storia è quella di vecchie imbarcazioni cedute dalla Marina Militare Americana alle autorità italiane in seguito al piano Marshall, poi riconvertite per usi civili. Gennaro Grimolizzi. Temevano di affogare tra le onde dell'oblio, di solcare, senza mai raggiungere la meta, i mari insidiosi della burocrazia. Non è andata così. 25 lavoratori pugliesi del settore marittimo hanno raggiunto questa volta un porto sicuro. Sono stati riconosciuti i loro diritti e verranno risarciti da alcuni armatori statunitensi dopo essersi ammalati di cancro su navi costruite con l'amianto. Il materiale cancerogeno veniva impiegato per isolare caldaie, turbine, tubi e condutture. Le imbarcazioni sotto accusa sono in prevalenza quelle che in seguito al piano Marshall vennero cedute dalla Marina Militare Americana alle autorità italiane e riconvertite per usi civili. A portare avanti la battaglia legale è stato l'avvocato Pierpaolo Petruzzelli di Bari, referente per l'Italia della law firm americana Lox. Illegale ha assistito in passato anche alcuni militari contaminati dall'uranio impoverito durante missioni all'estero. Da quasi 2 anni mi occupo di questa ulteriore attività in cui anche i lavoratori marittimi, sia che siano militari, sia che siano stati imbarcati su imbarcazioni civili e abbiano contratto una patologia correlata all'esposizione all'amianto, hanno la possibilità di vedere in parte risarcito il proprio danno direttamente negli Stati Uniti. Questo avviene attraverso una collaborazione con l'avvocato Cohen, consulente dello studio Lox, con il quale abbiamo attivato questa sinergia. Massima disponibilità è stata dimostrata dalle autorità statunitensi. Uno dei più grossi armatori e uno dei più grossi fornitori di materiale contenente amianto negli anni al mondo è proprio statunitense, e da questo grosso armatore viene provengono i risarcimenti più alti, risarcimenti che quasi sempre vengono riconosciuti ai lavoratori militari, perché molte di queste imbarcazioni sono state cedute dagli Stati Uniti a seguito del piano Marshall. Niccolò Cappelletti di Monopoli ha lavorato per quasi 40 anni su una nave contenente amianto. Ho navigato per tutta la vita, da 20 anni a 58 anni. Nella vita ho avuto molto impegno professionale con l'amianto, era il mio lavoro, perché ero un operaio meccanico ed era un lavoro giornaliero, tutti i giorni dovevo accedere ai macchinari per manutenzionare, e i macchinari, perché erano macchinari a vapore, per dispersione di calore erano coibentati dall'amianto, quindi aveva giornalmente il contatto amianto. Ho avuto un periodo di problemi fisici dal 70 al 90, però il medico, l'ospedale non riuscivano a darmi una risposta, aveva problemi di respirazione e ho continuato a tirare avanti così con la sofferenza. Per fortuna ultimamente è stato l'avvocato, mi disse di farti un TAC per vedere se realmente c'era qualche problema, e facendo questo TAC è venuto fuori che c'era il danno ai polmoni di amianto. Non c'è cosa peggiore dell'ammalarsi sul posto di lavoro. Ingiustificabile perdere la vita. E questo è il pensiero di Stefania Lupo di Bari. Il padre è morto qualche anno fa. Sì, mio padre è stato in marina per 20 anni da contratto mesotelioma per esposizione all'amianto. E naturalmente lo stato d'animo mio e della mia famiglia è assolutamente addolorato per questa perdita. L'unica cosa che ci ha un po' risollevato è stato questo piccolo risarcimento che abbiamo ricevuto dall'America. Per sensibilizzare l'opinione pubblica è stata creata l'Associazione Familiari Vittime Amianto. Le 25 richieste di risarcimento accordate sono le prime di una serie che si annuncia lunga. Il problema è molto sentito. Tantissimi marittimi sono stati esposti all'amianto nel corso dei decenni ed ora potrebbero avere finalmente giustizia. Italia in controluce. E ora un personaggio, lui è un attore, un autore teatrale che per primo in Italia, così almeno dice lui, si è messo a fare l'Eco Cabaret. Prossima data del suo spettacolo il 9 giugno a Milano. Sentiamo come ce ne parla Cristina Carpinelli. Se tante persone incominciano ad avere tanti piccoli cambiamenti, vuol dire che probabilmente qualcosa si può fare. Faccio un esempio banale che è quello dei telefonini, no? Che ci sono le guerre del litio, le guerre del coltan e così via. Per esempio, per avere un cellulare nuovo che poi ti durerà 6-8 mesi, tutto questo perché magari vuoi avere l'ultimo modello di telefonino, anche quando a volte è inutile, perché le faccio un esempio: vedere le partite di calcio sullo schermo di un telefonino che è poi 5-6 centimetri, cioè o sei il ministro Brunetta, allora dici per dinci che definizione sto maxi schermo, oppure spesso non capisci neanche la differenza tra la palla e la testa di Galliani. Voglio dire, magari inquadrano Galliani in tribuna e tu dici orca loca, stanno giocando male, continuano a buttare la palla in tribuna. Questa è la storia tragicomica del nostro pianeta, di come sta andando e di come potrebbe andare se riuscissimo a mettere davvero in pratica una serie di regole semplici. Si tratta del primo spettacolo italiano di Eco Cabaret. Lo porta in scena, sera dopo sera, Diego Parasole, classe 1963, piemontese, balzato agli onori della ribalta grazie alla televisione, ma già conosciuto da chi frequentava i teatri. In questo spettacolo parlo fondamentalmente della qualità della nostra vita, nel senso che poi in realtà racconto che molto spesso siamo ancorati a un modo di pensare spesso fondamentalmente legato al discorso soldi, economia e tutto il resto, che non sempre intanto rappresenta un elemento per renderci felici, e in secondo luogo poi parlo di tutto quello che ha un impatto sull'ambiente. Devo dire non proprio di tutto, perché poi le tematiche sono veramente incredibili, sono numerosissime, però parlo di energia, di produzione rifiuti, di auto elettrica, di possibilità di risparmiare con dei comportamenti intelligenti. Noi produciamo la corrente elettrica bruciando metano, carbone, olio combustibile, poi il risultato è che paghiamo una delle bollette più care d'Europa, per cui anche, le dico onestamente, anch'io ho litigato ultimamente con mia moglie, le ho detto d'ora in poi spegni la luce per dormire, mi ha detto ho paura del buio, ho detto sì, ma io dall'ultima bolletta ho paura della luce, insomma, perché... Dice Parasole di aver sentito la chiamata ufficiale alle armi e di aver così cominciato a scrivere di risparmio energetico, di cibo biologico, di laghi che scompaiono, di animali che si estinguono. Lo spettacolo è bello, informato e divertente. Si chiama Che Bio ce la mandi buona. Adesso per esempio sto già lavorando al seguito di Che Bio ce la mandi buona, che sarà lo spettacolo poi che debutterà in teatro il prossimo anno, e sto lavorando sul tema acqua, fiumi, laghi, eccetera. Ed è incredibile perché io sto scoprendo delle cose che non sapevo, cioè ci sono laghi come il lago Chad o il lago Daral che si stanno restringendo a vista d'occhio, cioè hanno sempre meno acqua dentro. Il lago di Tiberiade, quello dove Cristo ha camminato sulle acque, non dico che è completamente secco, ma quasi, insomma, diciamo che oramai lo attraversi a piedi anche se sei ateo, ecco, per intenderci. Allora, so benissimo che non sarò io a cambiare i destini dell'umanità, ma se tante persone incominciano ad avere tanti piccoli cambiamenti, vuol dire che probabilmente qualcosa si può fare. È tutto per Italia in Controluce. Potete scriverci per commentare i servizi che sono andati in onda o segnalarci le vostre storie a controluce@radio24.it. Siamo anche su Facebook, Radio 24. Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Ci sentiamo domani alle 6.30. Buona giornata.